Puntata numero X di Cialtroni nello spazio, sono le 12.47 minuti e questo significa che oggi stranamente siamo in diretta. Ciao Marco, ciao Alessandro. Benvenuti, ben ritornati. Purtroppo per voi sì, siamo in diretta. E un bentornato anche a Zamp, che sono stato in giro per tutta l'Europa per tutta la settimana. E un bentornato ad ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno ascoltando e che oggi potranno intervenire e chiedere tutto quello che vogliono a Marco Giac e ad Alessandro, che saranno pronti a rispondere ai loro quesiti sia telefonicamente allo 030 456 70, sia domenica prossima al Circo Lab come tutte le domeniche, perché insomma ha dei problemi di informatica e può rivolgersi ai nostri consulenti preferiti. Ripeto il numero con calma, che così possono telefonare e chiedere a Marco GH esattamente tutto quello che vogliono. 030 456 70. Ma bando agli scherzi, che cos'è Cialtroni nello spazio? Ce lo ricorda Marco. È l'attimo di approfondimento informatico tecnologico di Radio Onda d'Urto. Bravo, quasi bravo. Si capisce che Marco dorme la mattina. Quasi bravo. Tu che lavoro fai? Scusa, non ho capito. Schiaccio bottone. Allora, trasmissione di oggi centrata fondamentalmente su news, bachi e notizie simpatiche che si trovano qua e là per il web. E poi nella seconda parte di dissonanze, per chi ci ascolta in diretta e non ci ascolta dalla puntata scaricata dal sito quando tra qualche anno sarà disponibile, ci sarà una nuova trasmissione curata da Marco della redazione, che si occupa di un sacco di cose legate al consumo critico, al commercio equo solidale e a vari altri temi di questo tipo. L'ascolterete attorno alle 12.25 più o meno. Sembra quasi inutile fare una scaletta oggi delle notizie, iniziamo quindi da dove ti pare, Marco? Allora, qualche mese fa avevamo parlato della questione delle batterie dei portatili Sony. Lo ricordiamo in breve. Praticamente la Sony aveva prodotto un sacco di batterie per un sacco di produttori hardware. Queste batterie si erano rivelate davano grossi problemi, in alcuni casi esplodevano, e questo ha obbligato un sacco di produttori hardware, tra cui anche la Dell, uno dei più grandi produttori al mondo di computer, a ritirare 4 milioni di batterie e quindi sostituirle a tutti coloro che si fossero ripresentati con la batteria di quella da sostituire. Un richiamo si chiama questo. Bene, ha di nuovo dei problemi la Dell, in quanto in Canada la Corte Suprema dell'Ontario ha ricevuto appunto una causa legale in cui alcuni avvocati stanno chiedendo appunto di costringere Dell Canada a sostituire o riparare a proprie spese una serie di macchine, in particolare Dell Inspiron 1100, 1150, 5100, 5150, 5160. Beh, se li dici così velocemente non serve a nessuno. Comunque non ripeterli, che tanto non serve a nessuno. Vabbè, se avete un Dell andate a cercare su internet se il vostro Dell è da ma anche in Italia o solo in Canada? Al momento soltanto in Canada, però se qualche avvocato italiano decidesse di denunciare per le stesse motivazioni la Dell, magari, non so come funziona il diritto internazionale, se una cosa... Non sai mai niente, Marco, è inutile. Vabbè, però... cioè, perché te le facciamo dire a te le notizie? È perché non trovate nessuno di meglio di me. Buono. Vabbè, insomma, c'è questa causa legale però contro appunto la Dell Canada, adesso vi aggiorneremo con i risultati futuri. Vabbè, dai, andiamo a presentare un po' di bug e di notizie di problemi di sicurezza che sono usciti recentemente. Partiamo da Microsoft, ovvero la nostra casa software preferita, ovviamente. C'è stato un bollettino di Microsoft che ha corretto una decina di vulnerabilità questo mese. Ci sono una decina di vulnerabilità che sono relative ad Office e a Internet Explorer, e invece non vengono coperte i buchi che c'erano stati scoperti, ne avevamo anche accennato, mi sembra, in Word nel mese di dicembre. Quindi sono 10 le vulnerabilità, di cui per la precisione 9 in Office e una in Internet Explorer. Problemi critici che non andiamo a leggere nel dettaglio, comunque vulnerabilità dell'implementazione del Vector Markup Language, il VML di Internet Explorer, che viene utilizzato per creare immagini vettoriali da pubblicare sul web. Un problema di sicurezza che interessa anche la ultima versione di Internet Explorer, quindi la 7, che come abbiamo più volte detto ha ereditato anche buona parte dei problemi che c'erano nei problemi se non tutti i problemi della vecchia release. Vabbè, almeno adesso puoi aprire i tab come, come con Mozilla puoi fare da più o meno 5 anni. Però vabbè, dai, vabbè, è carina questa cosa. Però a differenza di Mozilla continua a schiantarsi. Tra l'altro questo problema è molto simile a quello che si era verificato lo scorso settembre. I problemi più gravi invece erano derivati da Outlook 2000, 2002 e 2003, che veniva utilizzato per salvare un codice che veniva utilizzato per salvare le ricerche in cartelle virtuali, e si convinceva l'utente ad aprirlo usando tecniche di social networking, e all'interno c'era del codice maligno. Non resta altro da dire che esiste un'alternativa molto più stabile, molto più sicura ad Outlook, esattamente come esiste Mozilla Firefox per sostituire Internet Explorer. Esiste anche Mozilla Thunderbird per sostituire Outlook, e buona parte dei vostri problemi se ne vanno via così. E poi ci sono stati un po' di problemi con Excel, con Worksuite e Office per Mac, insomma chi ha Microsoft Windows 2, cos'è, XP l'ultima versione, sì, perché non è ancora uscito Vista, dovrebbe farsi gli aggiornamenti, e questo è quello che resta comunque un consiglio che si dà di solito rispetto a questo. Problemi anche per il visualizzatore di PDF della Adobe, in particolare Acrobat Reader, problemi di sicurezza anche qua, aggiornato dalla versione 7.08 alla 7.09, anche qui stesso problema di prima, possibilità che nella visualizzazione di un file PDF maligno possano essere eseguiti programmi arbitrari da parte della persona appunto che ha creato questo PDF maligno, quindi si raccomanda anche in questo caso l'aggiornamento. E poi problemi anche per Mac OS X. Oggi non abbiamo problemi per Linux, ma abbiamo problemi un po' per tutti gli altri. E Mac OS X ha dei problemi con i file d'immagine DMG. La Apple sta ancora lavorando ad una patch, un problema che permette di eseguire del codice da remoto a propria scelta. Si deve indurre un utente ad aprire un file DMG maligno, che non è poi così difficile essendo un formato grafico, perché basta inserirlo all'interno di una pagina web. E, insomma, uno dei consigli che si può dare è quello di evitare che Safari monti automaticamente le immagini disco in formato DMG che vengono scaricate dal web. Insomma, si raccomanda agli utenti di OS X di disattivare la funzione apri documenti sicuri dopo il download dalle opzioni del browser di Apple, ancora una volta a significare che di documenti sicuri dopo il download non ce n'è proprio neanche uno. Il problema risale a un bacco del kernel di FreeBSD 6.1 scoperto all'inizio di dicembre, e poi è stato tirato fuori questo codice di exploit proof, che ti permette proof of concept, che ti permette di eseguire il codice. E insomma, si può comunque anche qua rimediare con una gestione accurata delle opzioni di Safari. Un problema di sicurezza però del posto di lavoro da parte degli operatori del call center di Wind. È un salto, no. Una licenza poetica, lo scarsissimo quasi. Tentativo di Marco di fare il ponte, come si dice in gergo tecnico. Mio Dio, che schifo. Infatti, cioè, qua stiamo parlando di qualcosa di tutt'altro. No, non vuoi più dircelo. No, adesso. Ci sei rimasto male. Vabbè, facciamo uno stacco musicale con esatto, una canzone che non è ancora stata preparata, ma quasi. Ci mettiamo qualche secondo. Beh, intanto io do questa notizia. Va allora, bene, dai, dacci questa. Appunto, è di questa notizia, di questi giorni, la notizia che Wind sta celebrando il suo 1.000.000° cliente, e per festeggiare questa cosa ha deciso di mollare il call center di Sesto San Giovanni, lasciando a casa 275 persone. e i sindacati si dicono già pronti a dichiarare uno sciopero per tutto il gruppo, che comprende sia il marchio Infostrada, sia il marchio Wind, che il marchio Libero, a seconda della telefonia fissa, telefonia mobile oppure di internet. Sì. L'Arsenizza. Devi tenere il microfono non puntato verso le casse. Non ci sono le casse. Sì, c'è la radio. E... è che non siamo abituati alla diretta, Marco, con te, quindi è per quello che succedono queste cose. A posto, questa era la notizia. Possiamo andare con la musica? Ma in realtà quasi. Possiamo far sentire il brano musicale e poi raccontare qualcosa rispetto a... No, non è vero, non possiamo fare neanche quello. Eccolo qua, The Modern Divide di Revolution Void. We'll be right back. con questo dimostriamo che anche la musica che si trova su Yamendo può essere tranquilla, dolce, rilassante. C'è un pacco tremendo. No, non è vero, non è una brutta canzone. The Modern Divide di Revolution World, tratto da Increase the Dosage. Ale, ci dici qualcosa su questo artista? Sì, dai. Beh, allora, intanto ha il sito, si chiamano Evolution Void, non World. Ah sì, scusa, ho letto male da qua. E il sito è www.revolutionvoid.com. Hanno all'attivo due album, quello da cui abbiamo tratto la canzone si intitola Increase the Dosage. È stato scaricato 13.000 volte nel 2006. Beh, 1.000 volte al mese. Sì, sì, sì. Beh, il sito è abbastanza minimale, vabbè, contiene la tracklist dell'album, completamente scaricabile. L'album si può scaricare via come MP3, come streaming, come FLAC per chi non piace l'MP3 e non vuole perdere qualità audio. Abbiamo mai parlato dei formati audio? No, meglio di no. No, beh, comunque esistono dei formati che non sono quelli del tradizionali, insomma, l'MP3 o il Wave, che consentono di conservare completamente una bella spiegazione per la settimana prossima. Potremmo la qualità, quasi proporla. Sì, no, ma siccome mi piace spiegare i termini che ho citato invece che buttarli a caso, questo è uno dei formati, si chiama FLAC, che permette una dimensione leggermente inferiore a quella del Wave, non è proprietario a differenza del formato Wave, anche se vabbè ormai lo scrivono tutti. E è fatto abbastanza bene, chiaramente è molto più grosso. L'intero, ad esempio, l'intero album dei Revolution Void occupa 380 mega invece che 83 in MP3. Chiaramente. Beh, però la qualità è, però la qualità è quella di un CD audio alla massima di un CD qualità. Continuiamo con un po' di news prima che Alessandro ci presenti un software, una cosa carina e divertente di chi ha sentito parlare di insomma realtà virtuali, mondi dove ci si può costruire un'altra identità e cose di questo tipo. Sicuramente uno abbastanza diffuso è quello di Second Life. La cosa carina e simpatica è che nella rete, quando ci si inizia a voler costruire una seconda identità e si entra in una sorta di mondo parallelo, succedono anche le stesse cose che succedono nel mondo reale, solo che acquisiscono dei significati e delle potenze, diciamo così, che si discostano da quello che è. Cerchiamo di riassumere cosa succede. In Second Life tu puoi sceglierti un'altra vita sostanzialmente virtuale, e da qualche settimana, tra la folla di coloro che utilizzano questo sostanzialmente videogioco, ma non solo, circolano anche quelli dell'estrema destra francese, che nel mondo virtuale più gettonato che ci sia ha aperto una propria sezione con finalità propagandistiche. La notizia la prendiamo da Punto Informatico. È una mossa che, secondo i rapporti dal fronte di New World Notes, non è proprio piaciuta a molti dei residenti di Second Life, che sono stati catturati in una spirale di proteste e manifestazioni elettroniche di piazza, e c'è anche una foto sul sito di Punto Informatico in cui si vedono le manifestazioni di gente anche, diciamo così, a volto coperto, o comunque che va a fare una manifestazione antifascista con i cartelli "destroy the Nazi" e buttare fuori il fronte nazionale di Le Pen, fuori appunto da Second Life. Ed è una sorta di guerra politica del metamondo che viene combattuta con armi surreali. Le cronache sono abbastanza intriganti. Quando sono giunto alle proteste contro la sede del Fronte Nazionale, racconta appunto uno dei partecipanti a questa manifestazione virtuale, sono giunto alle proteste contro la sede del Fronte Nazionale francese in Second Life, la prima notte dappertutto c'erano manifestanti con cartelli e dichiarazioni politiche da distribuire ai passanti. La seconda notte il tutto era divenuto un conflitto. Molti residenti si erano armati, esplosioni dai molti colori, un continuo scoppio di armi da fuoco irrompevano nell'area di Porcupine, l'isola sulla quale il Fronte Nazionale a dicembre aveva scelto di costruire la propria sede virtuale. Il server era assaltato da così tanta gente che sparava all'impazzata da rallentare la battaglia ad uno scontro in slow motion. Questo, insomma, L'unica devastazione che c'è stata è stata quella di rallentare il server nel mondo reale, ovviamente tutto il resto è stata una manifestazione virtuale di piazza, anche abbastanza numerosa, però che è rimasta nel campo del sorta di videogioco, per semplificare, chiamiamolo così. Sì, sì, si tratta, dai, giusto per entrare un attimino, si tratta di un videogioco, è un fenomeno abbastanza diffuso negli Stati Uniti, conta oggi 2 milioni e mezzo di utenti, di residenti si chiamano. È un fenomeno che ha comunque delle interessanti risvolti sociali, comunque, nel senso che è un mondo virtuale che sta aprendo sempre più connessioni col mondo reale. E la notizia di qualche mese fa era appunto l'interoperatività tra Second Life e eBay, con la possibilità di acquistare nella vita virtuale cose che poi con moneta reale. Quindi è un fenomeno abbastanza interessante dal punto di vista sociologico, e crea anche delle contraddizioni, comunque, nel senso il margine tra la vita reale e quella virtuale, per volontà degli stessi ideatori, si sta un po' assottigliando. E sempre legato a Second Life, della settimana scorsa, di 10 giorni fa, c'era la notizia appunto che il client, cioè quello che permette di collegarsi al server per giocare, quello che fa vedere in sostanza la grafica virtuale in 3D, è diventato open source, scelta abbastanza interessante soprattutto per le possibilità che potrebbe dare per lo sviluppo di uno di questi server invece completamente open source, quindi senza il costo dell'iscrizione per partecipare a questo gioco. E insomma, i fan di William Gibson che hanno letto alcuni dei romanzi comunque ci ritrovano molte delle cose che Gibson aveva scritto tra l'81 e gli anni 80, fino agli ultimi romanzi come Aidoro, che erano usciti alla fine degli anni 90. Molti paralleli rispetto a questi metamondi sono abbastanza interessanti. Così, beh, in realtà ci vedo molto di più un Neil Stephenson e un Snow Crash. Non ho capito una parola di quello che Neil Stephenson, Snow Crash. 1980 qualcosa, 89. Possiamo fare una guerra di letteratura cyberpunk. Fratelli Karamazov. Passiamo invece adesso a presentare brevemente un software. Alessandro, tocca a te. Allora, ne avevamo già parlato, mi pare, l'anno scorso, quando abbiamo accennato un po' di software per l'editing video. Allora, questa volta ne riparliamo perché ne è uscita una versione nuova, o meglio sta uscendo la versione stabile nuova, comunque quella, l'ultima release è già pienamente utilizzabile. Il software si chiama Jashaka, è un po' strano il nome, J-A-H-S-H-A-K-A, è un progetto open source scritto in Java con l'utilizzo di un paio di librerie, vabbè, senza tediare troppo dal punto di vista tecnico. Il progetto è diventato molto molto interessante, tant'è che all'oggi può essere considerato l'unico editor video open source realmente utilizzabile, e dal punto di vista della qualità sia della produzione che della facilità d'uso e della velocità anche di montaggio. Allora, abbiamo detto, è open source, rilasciato sotto licenza GPL. Assieme a Jashaka sono stati sviluppati altri due software che si chiamano JaPlayer e JPlayer. Il primo è una sorta di player con libreria, sempre per quanto riguarda il video, e il secondo invece è un player drag and drop. La cosa interessante, ovvero che ci trascinate sopra la roba e lui ve la fa vedere. La cosa interessante è che appunto sono sviluppati in Java, per cui la medesima applicazione si presenta al 99,9% uguale su Windows, su Linux, su Mac OS X, e può essere trasportata su una pennina, anche se vabbè è sconsigliabile, nel senso che il programma è di una certa dimensione, non grandissima, però su una, ci vuole una penna un attimino da un giga, insomma, comunque che possa tenere un po' la dimensione del programma. Ha un'accelerazione hardware, per cui permette di utilizzare anche schede che vengono utilizzate per il montaggio video. In particolare può fare tutta una serie di cose che per chi utilizza programmi di video editing sono abbastanza importanti. Sono, allora, permette di editare direttamente i frame con degli effetti in tempo reale, di modificare direttamente disegnando più o meno come si disegna con un pennello, quindi come con GIMP o comunque qualunque programma di grafica, si disegnerà direttamente sui frame. Ha una gestione della musica che può essere paragonata a qualsiasi altro programma commerciale, la musica è abbastanza facile da gestire, lavora diverse formati e diverse risoluzioni, compresi formati compressi DVX o affini. Permette di lavorare anche via rete, quindi è un valido sostituto anche di alcuni software dedicati, diciamo, alla situazione più professionale, dove negli ambienti professionali dove ci sono dei le clip vengono archiviate su dei server per poi essere utilizzate attraverso la rete. Insomma, ha delle soluzioni tecnologiche piuttosto interessanti. Il progetto si muove abbastanza velocemente, nel giro di un anno sono già uscite due major release con notevoli migliorie, per cui chiunque fosse interessato all'editing video e non si vuole per forza scaricare il programma craccato di turno, peraltro fatto abbastanza male di solito, perché l'editing video casalingo nei programmi più blasonati come Premiere o Studio non è proprio rose e fiori, per chi li ha provati sa un po' come si comportano, l'elevato numero di crash che si verificano nell'utilizzo di questi programmi. Per cui provatelo, cercate Jashaka o qualcosa di simile su Google. Si scrive con gashaka.org e provatelo, tanto anche l'installazione è molto molto semplice. La cosa interessante è che sul sito ci sono anche dei tutorial, purtroppo in inglese perché il programma rimane all'oggi solo in inglese, però ci sono dei tutorial che introducono all'utilizzo e alla creazione di filmati con Jashaka. E vogliamo chiudere questa trasmissione con un paio di news che si muovono rispetto alle Creative Commons e l'utilizzo libero dell'informazione. Una, quella che è una smentita che arriva dal governo italiano in un certo senso, perché era stato annunciato nelle scorse settimane che l'archivio della RAI sarebbe stato pubblicato con licenza Creative Commons, quindi sarebbe stato possibile scaricare e ridistribuire i contenuti prodotti dalla RAI, che ricordiamo vengono prodotti anche grazie ai canoni di abbonamento, quindi in un certo senso appartengono a tutti gli abbonati della RAI, ma tutto questo invece è scomparso. Si trattava di una parola, di una frase all'interno di un articolo del nuovo contratto per la RAI, e che invece è scomparsa nella nuova versione, quindi non si parla più di licenze libere, non si parla più di neutralità della rete, non si parla più di contenuti che abbiamo già pagato, ricordiamo, disponibili gratuitamente. Quindi quello che era stato, che mi ha fatto un po' urlare al miracolo migliaia di sostenitori dell'open source, ovvero il nuovo contratto nazionale di servizio della RAI, che appunto prevedeva le Creative Commons, è già stato smentito. Invece dall'Inghilterra, dal Regno Unito, è stato messo a disposizione di tutti gli abitanti della Gran Bretagna l'intero corpo normativo del paese, e quindi si può accedere a un database totalmente gratuito e aperto per andare a vedere quelle che sono le leggi dello Stato del Regno Unito. Per ora mancano alcuni aggiornamenti, in particolare garantito solo fino al 2001. I dati rilevano i cambiamenti legislativi solo dal 1991 e comunque con un po' di pazienza dovrebbe riuscirsi ad arrivare tutto l'intero corpo normativo del paese. E sembra incredibile che con gli strumenti che ci sono oggi, con le possibilità e il minimo di risorse richiesto da un'eventuale pubblicazione online, non ci siano già i corpi normativi dello Stato online. Esiste sì, la notizia probabilmente è che non c'è ancora questa cosa. E sembra veramente allucinante, visto che comunque quando le leggi vengono redatte e riscritte, pubblicarle su un database, anche molto banale, anche solo di archiviazione, costerebbe veramente pochissima fatica e investimento. È assurdo che oggi l'accesso al corpo normativo sia ancora vincolato a pubblicazioni spesso costose, che di fatto poi restano per una piccola cerchia di tecnici o istituzioni. Invece l'ultima notizia che diamo oggi è invece una buona notizia. Ma ovviamente non in Italia, perché è una notizia prettamente americana, ma arriverà. Sì, aspetta, sì. Spera. Si stanno preparando. San Francisco. Centinaia di città in Italia si stanno preparando per questo evento. San Francisco, una città degli Stati Uniti nello stato del California. Bravo. Scusa. Appunto. Sarà la prima città al mondo a essere interamente coperta da un accesso a internet wireless. Questo accesso gratuito, scusa, è vero, no, stavo dimenticando. Questo accesso verrà fornito gratuitamente appunto da Google in collaborazione col provider Earthlink, che appunto forniranno una banda di accesso garantita pari a 300 kbps, una DSL di 3-4 anni fa, così come termine di paragone, niente di male, in qualsiasi punto della città di San Francisco, e appunto gratuitamente. La grossa notizia sarà appunto non tanto adesso in questa fase iniziale, ma sarà vedere come ci sarà appunto l'evoluzione di quanto riguardano appunto tutti i sistemi di comunicazione, di interazione tra le persone, con la possibilità praticamente infinite che verranno date da questo sistema di accesso. Cioè sostanzialmente voi accenderete il vostro computer e se avete una scheda wireless siete connessi a internet senza pagare un solo dollaro. Beh, ma ad esempio anche vedo dei grossi cambi per quanto riguarda la telefonia. Un telefonino wifi costa qualche decina di euro, per cui semplicemente con quello sareste a San Francisco, si sarebbe sempre raggiungibili e gratuitamente si potrebbe telefonare. Non lo so, un sacco di cose del genere. In Italia c'è stato un po' di anni fa una notizia simile, che diceva appunto che Roma sarebbe stata cablata in accesso senza fili completamente nel giro di qualche mese. Sì, era il primo mandato di Veltroni, mi sembra, i primissimi mesi. Esatto, forse era una notizia del primo di aprile, come avvengo sempre in Italia. Vabbè. Considerando che in Italia nemmeno a pagamento e nemmeno via terra in tutte le zone arriva già la DSL. Nel 2011 ci sarà cosa? La copertura completa? Dicono di sì. Questa è la sigla, ma noi dobbiamo... Beh, no, dovevo ancora dire una cosa, perché anche noi al circolo, nostro piccolo, daremo entro breve accesso gratuito a internet da tuttavia Fratelli Bandiera. Ma non è il primo di aprile. No, ma noi lo facciamo davvero. spazio.circolab.net per il sito mai aggiornato della nostra trasmissione. Il Circolab quando apre, Marco? Sempre la domenica pomeriggio alle 5 del pomeriggio. Alle 5. Alle sì. 5 della tarda. All'indirizzo via Fratelli Bandiera numero 14 C a Brescia. C. Sera, C. C. Non lo so. Mentre invece Cialtroni nello spazio torna mercoledì prossimo attorno alle 12.40, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questa è la nostra sigla e noi vi salutiamo. Ciao.